ragazzi, ragazzi di una certa età, con le quali facciamo un sacco di cose, di fare la ginnastica, un sacco di altre attività, abbiamo pensato di aggiungere un argomento che è quello delle streghe, abbinarlo a quello delle erbe tradizionali, quindi erbe buone e erbe brutte. Quando vi dicevo il mazzolino della sposa, l'abbiamo preparato, la signora l'ha preparato con il vincello, con tutte le erbe velenose, molto bello, tutto pieno di fiori, se vuoi assaggiare, prego. No? Le erbe tradizionalmente erano usate dalle streghe che erano sapienti, perché conoscevano le erbe, le sapevano usare, sapevano curare e anche sapevano anche uccidere, perché c'era la magia bianca, che non era, insomma. Ma direi che tradizionalmente venivano fatte per curare, cioè non è che fossero tutte assassine, non è così, assolutamente. Però avevano questo sapere, che all'epoca era, dava un po' fastidio a tutti, per cui via dicendo, adesso non raccontiamo le storie perché le sappiamo tutti. Comunque, siamo qua per questo. Noi abbiamo fatto una mostra di erbe, non so se qualcuno di voi è già venuto a vederla, cioè io insieme alle ragazze, dove ci sono le erbe buone e le erbe non buone che abbiamo raccolto, non io, mentre loro, nei campi. Poi abbiamo fatto una stanza dedicata appunto alle streghe, con delle tarocchi, magie, eccetera. Se volete poi venire, starà ancora la prossima settimana, abbiamo preparato le bacchette magiche da attivare, insomma, abbiamo fatto una roba un po' diversa dal solito. E quest'anno abbiamo pensato di invitare Carlotta Rei, una dottoressa, nostra amica, amica io da poco, però insomma, è una nostra amica che ci parlerà di erbe, stregoneria e poteri magici delle erbe. Potrò recuperare il file che hai eliminato? Scusate. Prego. Allora vi dico ancora due cose. La settimana prossima, quindi tutti i weekend, ormai sono quasi tutti finiti perché siamo verso la fine di maggio, ci sarà ancora un sabato che la Volpe Mirtillo, che è una cooperativa di comunità, porterà le persone nel Castaglietto che hanno qui dalle Vallette al pomeriggio, poi ci sarà una merenda e invece il giorno dopo ci sarà di nuovo. Dov'è che importa? A Quarzina, la Golao, chiesa di San Giovanni, poi ci andremo da Riccio di Quarzina, anche adesso ci sono due ragazzi nuovi, quindi li conosceremo. Quindi abbiamo ancora... È già aperto? Apri ai primi di giugno, però loro ci sono, quindi riescono a servire, fanno qualcosa per noi. Anteprima. La telecamere, bravi. Sì. Però ci fatti io la settimana ce scorsa. Ancora, la settimana scorsa sono sopravvissuto. Quindi siete benvenuti, anche voi di là. Una genovese che ha lavorato sotto corona una vita all'ospedale, viveva a Luano, adesso non ci vivo più. Anch'io non ci vivo più. E anche tu? Alassio. E io